24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. E allora, buongiorno, siamo qua alle 6:32 minuti. Questa metafora del tacchino e del passerotto non potevamo non utilizzarla. Per noi fino alle 9 si conclude la settimana di 24 mattino con il solito consiglio del presidente del consiglio, il super consiglione. But please relax. Visto che arriva un weekend e alle porte, dunque apriamo il nostro bar per quest'ultimo giorno della settimana, venerdì, la nostra Nicole Minetti. Il caffè volentieri a tutti quanti. A tutti quanti offriamo il caffè come al solito. Il numero della nostra segreteria c'è, ci ha ancora chiamato la nostra amica Canterina, che ogni giorno così ci regala dei momenti. Questa la riconosco anch'io, l'Ave Maria. Il telefono va un po' in distorsione sugli acuti, però grazie, ecco. E vabbè, insomma, ci chiama e ci lascia questi messaggi un po' allegri intanto, ci mettono allegria la mattina, la nostra amica che ci chiama in segreteria, ma qua nel nostro bar vedo già la gente che si affolla e voglio salutare allora Paolo Del Debbio, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. Già in pista ovviamente, perché tra poco su Canale 5, poi Quinta Colonna lunedì e poi basta. Che ci vuole fare Milan, ci tocca lavorare. Meno male. Saluta anche Alessandro Giglioli, ben ritrovato, l'Espresso, buongiorno. Piovono rane, attenzione anche tacchini forse dal tetto, non lo so. Ma no, è meno bello, così come immagine è già meno interessante. Questa è bella, io ho faticato a prenderci sonno la notte, non so se Paolo Del Debbio è meglio un passerotto in mano o un tacchino sul tetto, non si è capito. Non lo so, ora questo insomma... Che è un po' la versione tedesca, si è capito, del meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Ma, esatto, sì, ora questo non è difficile, non lo so. È difficile. Allora, qua menano fendenti, dopo il fair play che c'è stato finora, arrivano i fendenti, arrivano i colpi bassi. Allora, questa storia delle regole, intanto no, devo chiedere un pronostico, visto che lo faccio a tutti questa settimana. Chi vince domenica, Del Debbio, tra Bersani e Renzi ovviamente? Sembra che dicano che vinca Bersani, insomma. Lo dice anche Renzi, pare che al Corriere abbia detto all'80% vince Bersani, quindi vince Bersani, pronostico. Sembra di sì. Giglioli? Prima di poco. Chi se ne frega, basta che vincano. No, voglio dire, no, vince di poco, non è che non sarà una vittoria di quelle secche epocali, vince di poco perché Renzi ha fatto un rimontone, secondo me. Tipo un 55%, dai, così potrebbe essere una cosa del genere. Sì, anche un po' meno. Allora partiranno le contestazioni, se sono al 53-47, tipo una roba del genere, partiranno le contestazioni. Comunque, avete visto insomma che adesso volano colpi bassi, questa storia delle pubblicità comprate da Matteo Renzi, per il quale gli altri quattro candidati l'hanno denunciato al Comitato dei Garanti. Beh, intanto oggi se uno sfoglia il Sole 24 Ore a pagina 22 trova il paginone, quindi Matteo Renzi, Pierino la Peste, continua, non gliene frega niente, Giglioli, non gliene frega niente, continua con queste pubblicità. Guarda, è un finale triste di queste primarie, ci siamo tanto riempiti la bocca dalla bella festa di democratica, no? Che tutti hanno detto. Io non ho votato, ma ho massimo rispetto per chi ha votato domenica scorsa. Però ci siamo tutti riempiti la bocca della grande festa democratica ed è finita in una specie di guerra di Bosnia, qui si combatte magari con le tastiere, con le pagine pubblicitarie, con le dichiarazioni dei giornali, anziché con i mitra, ma è un finale abbastanza... è evidente che sono due partiti, dai, ormai sono due partiti che stanno dentro uno, lo si vedeva anche nel dibattito, sì, dei diversi linguaggi, delle diverse visioni del mondo, sono due partiti. Addirittura. Non so quanto lungo staranno insieme. Ma infatti questa è la versione, oggi su Libero c'è per esempio Davide Giacalone che fa un invito a Matteo Renzi, vorrei su questo anche il parere vostro, Paolo Del Debbio, che ne pensi? Ha detto fai un bel tuo partito, che è un po' quello che pensano molti italiani. In realtà Renzi dice no, ma io sono all'interno di questo partito, io sono del Partito Democratico. Fino a domenica, secondo me. Fino a domenica? Cioè c'è la possibilità, sì, davvero che Renzi faccia un, sì, suo, sì, partito? Secondo me sì. Sì, secondo me sì, si presenti come candidato premier al di là delle... Ah, di questa... Premier. Cioè se perde fa una sua o partito, comunque lista... È una possibilità, insomma. Che ne so, no, la lista magari c'è il nome già, adesso potrebbe essere, eh? Sì, adesso, che ne so, ora, insomma, così, anche se è una roba vecchia, fu quello di... Adesso fu anche quello di Aznar, ricordiamoci, sì, Aora si chiamava. Aora. E quindi può darci tutto, insomma. Quello che dice Signori ha ragione, cioè in realtà è difficile trovare un collega. Mentre, diciamo, tra un Tabacci e un Bersani si trova, con la Puppato anche, forse anche con Vendola, ma Renzi veramente scentrato nel confronto di tutto il mondo lì. C'è ben poco, insomma. C'è ben sul fatto poco. Poi, sul fatto poi di comune c'è ben poco, sul fatto poi che si siano un po' scannati alla fine, succederebbe anche in altri partiti, succede anche in altri paesi che all'interno poi delle primarie si scannano un po'. Ma no, ma poi, ma io dico meno male poi, al di là dei... Poi si rimettono insieme, qui non so se si rimettono insieme. Qui non si sa, qua mi sa che è una separazione definitiva. No, no. Quando i ceffoni vanno oltre una certa gradazione, poi dopo, insomma, uno se lo ricorda. Ma anche perché, scusate, il dibattito è stato all'insegna del fair play, io non lo dimenticherò mai e continuerò a ripeterlo, quando Renzi ha detto che bisogna vietare il cumulo di due o tre vitalizi e aveva davanti a sé Bersani che ne prenderà tre per l'appunto e non l'ha detto, ha continuato a dirlo per giorni prima e poi una volta che ci aveva lì poteva affondare un colpo, nel senso in maniera sportiva, mica diceva una cosa non vera, avrebbe detto una cosa vera e ha evitato, e quindi finora c'è stato molto molto fair play, adesso vola qualche parola. Sentiamo per esempio Luigi Berlinguer, che è il presidente del comitato dei garanti del Partito Democratico, credo di aver detto la dicitura giusta, ieri su questa vicenda di volano anche mail, sentite cosa ha detto Berlinguer. Intanto sono stato un po' colpito da un messaggio che casualmente abbiamo intercettato, casualmente, che proviene da Treni, che dice portiamo tanta gente a votare, scatenate l'inferno. Io vi devo dire che non mi piace l'inferno, sinceramente. Noi vogliamo costruire il paradiso, non l'inferno domenica prossima. Vogliamo arrivare ad un svolgimento regolare, ma gioioso. Gioioso, non l'inferno, ma il paradiso, hai capito Giglioli? Vuole il paradiso, Berlinguer, mica l'inferno. Ma scateniamo l'inferno è un modo di dire, non credo che voglia dire non credo che arrivano che, con i forconi, no. Non credo che Berlinguer conosca il riferimento cinematografico qui. Sì, ma poi è un po', lo so, Del Debbio, è un modo di dire, non credo che arrivino con le code biforcute, no, è caduta la linea, vabbè, adesso la recuperiamo. Giglioli, arriveranno con le code biforcute i renziani ai seggi con forcone in mano, no? No, perché guarda, io tra l'altro in quest'ultima settimana ho un sacco di amici che stanno nell'area del PD, più o meno divisa a metà fra bersaniani e renziani, e io sono totalmente neutrale fra i due, come ho detto, non ho neanche votato al primo turno, mi figuriamoci il secondo. Sì, neanch'io. È una settimana che li sento far campagna elettorale, sono veramente stanco, cioè io massimo rispetto agli ultimi, ma sono veramente stanco, anche su Facebook, ormai io non riesco più a aprire Facebook senza che mi assalgano fan di Renzi o di Bersani. Infatti ieri a un certo punto ho fatto una preghiera a tutti di moderare i toni, perché mi sembra di essere in guerra e io devo passare tra le due trincee nemiche. Sì, insomma, non si vede l'ora che si voti allora. No, dicevo del debbio, perché cadesse la lira, non credo che i renziani vadano a scatenare l'inferno coi forconi. Tutto svolto regolarmente anche domenica. Renzi si è fatto le cellule di fila, se non sbaglio. Ma sì, no. C'è quella tensione così, c'è un po' di tensione, c'è un po' di tensione. Io però vi voglio. No, la verità è un'altra, è che quella nomenclatura visibile dei Berlinguer vari e Bersani gli fa veramente male come l'inferno. Perché Bersani ha provato a staccarsene un po', e Renzi tutto sommato gli ha dato anche la mano, perché poi alla fine c'è tutta una serie di vecchioni. Se rivelerà intorno, se rideva per merito di Renzi, però ce n'è ancora molti e li fanno male a Bersani, perché probabilmente Bersani sarebbe anche un po' più avanti di loro, sicuramente. Però c'è tutta questa nomenclatura intorno che dice queste frasi qui, che non aiutano. Dà idea un po' di vecchio, questo sì, un po' dell'idea del vecchio. Perché ha detto quella cosa lì vuol dire attaccare una cosa che esce alle orecchie della gente, probabilmente una cosa simpatica, capito? Non è scatenato inferno, sanno tutti a che si riferisce. Ma è un modo di dire, come dire, dai, facciamogliela vedere. È come se avesse detto facciamogliela vedere, vengono qua violenti. Ma no, è un modo così. Poi era una mail, non ho capito, l'abbiamo intercettata casualmente, ripetuta due volte. Comunque vi voglio far ascoltare, del centrodestra non parliamo per un giorno, perché insomma non si sa più che dire, siamo tutti in attesa che Berlusconi si pronunci. Volevo farvi ascoltare l'intervento del giorno di un leghista che ieri alla Camera ha preso la parola per parlare del carcere, si chiama l'onorevole Isidori ed è diventato già un cult il suo intervento, credo la prima volta alla Camera, di 18 secondi. Sentite se riuscite a capire che cosa ha detto. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena prescritta. Che gli aspetta? Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Lo so, Giglioli, il concetto che voleva esprimere è che se uno compie un reato lo sa prima, il penitenziario non è un posto di vacanza, e quindi non bisogna uscire dal carcere prima di aver finito di scontare la sua pena. Ecco, questo intervento mette la parola fine sul famoso distacco fra il paese reale e il palazzo. Ma poi il povero Isidori ha detto: ma io ho la terza media, sono il parlamentare meno consono, credo che non abbia usato quella parola. Lo prenderei con il linguaggio, la prenderei con la scarsa visione del concetto di reeducazione, ma al di là di questo non so che posizione volesse esprimere. Io preferisco uno che parla così di quelli come faccio un nome, Razzi, che leggono dei bellissimi interventi scritti dai loro, ma non ne capisco la punteggiatura, laureati, di cui non capiscono una parola. Ma Razzi è vissuto all'estero, dai, è vissuto all'estero. Lo straniero di coppa, lo consideriamo. No, Del Debbio dice consono, effettivamente è una parola che abbiamo insegnato a Isidori in questo momento, credo. Insomma, è difficile più giù del bignami, no? Sì. Il famoso Bignamino. Cioè, riuscito. Secondo me si lancia una linea, ad esempio, il diritto penale. Potrebbe farlo edizioni più semplici del Bignamino. Sì, su tutte le università. C'è una collana. Secondo me c'è anche il Lavende lì in Parlamento. Secondo me. Non è male come idea. Nelle università potremmo suggerirlo per fare quei bignami. L'Isidori diventa dal bignami all'Isidori per prepararsi all'esame in tre giorni. L'Isidori dei delitti e delle pene, o del diritto penale, codice di procedura penale, non lo so. Io lavoro nella sanità e Monti ha perfettamente ragione. Ci sono tanti sprechi, ma ricordatevi, il pesce puzza sempre dalla testa. Oggi il Popolo delle Libertà non è nient'altro che una delle tante proprietà di Berlusconi. Quindi loro sono schiavi del proprio fautore e non possono farne a meno, se no crolla tutto, non sono nessuno. A tutti i grillini o come si chiamano all'ascolto, quando tra qualche mese avrete il vostro 15% di parlamentari, si prega di non rompere tanto le scatole all'onorevole Bersani, che sarà allora Presidente del Consiglio, perché io un buon governo di sinistra alla faccia del cavalier Schettino d'Arcole non lo voglio, lo pretendo. Prima o poi questi politici o chi ha governato dovranno chiedere scusa, no? E dovranno chiedere scusa in piazza. Capo numero uno, si prepara il politico X. Capo numero due, Y. Sei un mito. Ciao. Carissimo Alessandro Milan, non sono arrabbiata, sono sconcertata. I miliardari, non avendo lavorato nella loro vita praticamente mai, percepiscono ora una pensione sociale e quindi, a proposito di sanità, hanno un'esenzione famosa E01 per cui non devono pagare mai il ticket. Un bacio. Caro Milan, sei un grande. Ti faccio una proposta. Un cerino quando siamo sicuri che sono tutti dentro. Dopodiché propongo Giannino Presidente del Consiglio, Barisoni Ministro dell'Economia, chiaramente Milan Ministro alla Comunicazione. Vabbè, oggi ci stiamo montando un po' la testa, lo facciamo per l'autostima. No, però devo dire, siamo con Alessandro Giglioli e Paolo Del Debbio, no? Ministro della Comunicazione, ma de che? Ma fate, la portaborse, Milan. Ma no, ma lo facciamo fare a un Gasparri, ministro della comunicazione. Io voglio come minimo il ministro. Appunto, come minimo voglio il ministro degli esteri viaggiare gratis, andare. Lei, Ecco appunto, andiamo a fare, sì. Ma poi non so, Giglioli poi non gli piace per nulla Giannino, ma te lo vedi, Giglioli, Giannino che deve chiedere i soldi ogni volta a Barisoni e finisce perché il ministro dell'economia è quello che tiene i soldi, ovviamente finisce a botte insomma, finisce a botte. Lo chiedi a me, un commento su questa squadra di governo. Ma guarda, Giannino al governo in qualche modo c'è già, nel senso che il governo attuale è un governo che fa sue e implementa molte delle idee. Ma che Oscar? Ma questa la mandiamo a Oscar, guarda che poi dopo ti gliela faccio ascoltare alle 9 e ti risponde. Va bene, non c'è problema. Io la squadra di Radio 24 la conosco come quell'ascoltatore, perché sono un vostro ascoltatore. Sì. So che ci sono idee molto diverse, persone molto diverse. I Barisoni sono un attento ascoltatore, sono d'accordo con il 90% delle cose che dice, quindi non credo che ci sia un'ideologia fondante che vi unisce. Non siete un partito, è il vostro bello della... Meno male, ma regge quattro giorni un governo così, forse tre. Forse è la pluralità delle idee che ci sono e delle persone che ci sono. Però Giannino rappresenta un'ideologia molto specifica. Io non sono nemico, lo considero il più speculare avversario politico delle tue idee. Chiaro, limpido, che ci sia, senza tante ipocrisie, ecco. No, certo, fronte certo. A tanti politici che fanno finta di essere sociali e sono iperliberisti o viceversa, lui rappresenta una visione del mondo che è quella vincente, che in questo momento sta vincendo, ed è quella a cui io, nel mio fare politica attraverso il giornalismo, intendo limpidamente oppormi in modo totale. Va bene, stiamo prendendo sul serio questa cosa. E poi qualcuno pensa davvero che non stiamo scherzando, poi facciamo un partito e... Lui non sta scherzando, una specie di partito. Vabbè, certo, ma no, certo, lui un movimento fermare il declino ce l'ha, per carità. Io no, ma credo neanche Barisoni, non ci buttiamo in politica. Vi voglio far ascoltare, lo sapete cosa ha fatto la RAI Del Debbio? Ha saputo che ha cacciato, è stato licenziato quel giornalista del servizio prima di Juve-Napoli, che aveva detto in pratica che i napoletani puzzano, è stato licenziato dalla RAI. Sentiamolo il servizio, sentiamolo, che poi vi chiedo un commento. Oh Vesuvio Navali tu! Oh Vesuvio Navali tu! I napoletani sono ovunque, quindi non è che possiamo considerare sud, centro, nord, sono ovunque, un po' come i cinesi. E voi li distinguete dalla puzza con grande signorilità. Eccola qui la domanda del giornalista: e voi li distinguete dalla puzza ai tifosi? Del Debbio è stato licenziato dalla RAI. è giusto? Ma lì è discussa la cosa, perché non credo, lui l'aveva detto perché l'aveva sentito dire da quell'altro prima di intervistarlo, no? Sì, comunque per... sì, è certo, ha detto una bischerata. E però... che domanda è fare a uno li distinguete dalla puzza? È proprio... Sì, no, certo, ha detto una bischerata. Ora però, a confronto alle bischerate che dicono altri giornalisti, dai, insomma, questa qui non è neanche delle peggiori. Sì, questo è vero, cioè, sì. Però questo è... Un licenziamento in massa, lì dentro. Però comunque sia, insomma, la decisione di licenziarlo, a me sembra un po' eccessiva come cosa, però... Un po' eccessiva. Magari... Non so, Giglioli, è stata eccessiva la RAI. Tra l'altro c'è anche un procedimento disciplinare dell'ordine regionale del Piemonte. Ma adesso, poveraccio, cioè, ha detto una frase tra le più infelici che si possa dire. Forse è stato preso da, come dire, dall'enfasi, vedeva i tifosi, e che ha combinato questo casino, Giglioli, ma addirittura licenziato. Ma che lui abbia detto una sciocchezza mi sembra fuori di dubbio, che... sia passata questa sciocchezza, a me interessa come, cioè io lavoro anch'io in una redazione, si sa benissimo che sopra il redattore ordinario ci sono un caporedattore e un direttore, qua mi sa che se la sono presa con l'anello debole, qualcuno ha dato il suo ok al passaggio di quel video, sì. Allora io più che mandare a casa il giornalista, che personalmente non l'avrei licenziato perché veramente mi sembra una misura molto, come dire, violenta, inumana, si può benissimo prendere uno e punirlo in altro modo per la sua scemenza che ha fatto, tirarlo fuori dal video per 3 anni, sì, mandarlo a contare le virgole in redazione, in fondo alla redazione per 2 anni, insomma, cioè, dice, non vai più in onda, non so, non vai più in onda per 2 anni, hai sbagliato. Io vorrei vedere che la punizione in qualche modo riguardasse anche i suoi superiori, perché non si capisce perché in Italia c'è sempre questa tendenza a blame the victim, prenditela con la vittima, prenditela col più debole, sì, prenditela, sì, con il gradino più basso. Vabbè, lui ha sbagliato sicuramente, però certamente la punizione è stata anche molto, molto dura. Mi devo fermare, ringrazio Alessandro Giglioli, ricordate il suo Piovono Rane, blog molto seguito, e Paolo Del Debbio, che tra poco è Canale 5, poi lunedì Quinta Colonna imperdibile su Rete 4. Che dire, vi lasciamo ancora con l'imperdibile anche intervento del leghista onorevole Isidori ieri alla Camera per parlare del carcere. Ci ritroviamo dopo il GR delle 7. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena prescritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. È venerdì 30 novembre, sono due le scelte di apertura dei giornali, chi sceglie l'Ilva e chi la vicenda Israele-Palestina, per la verità sono tre le aperture, e poi la vicenda del PD e la battaglia sulle regole. Allora, Ilva di sequestro per decreto, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, e anche il Secolo XIX, che è attento anche a quello che succede all'Ilva a Genova, Ilva trattativa a Roma, manganellate a Genova, dove ieri ci sono stati scontri tra operai e forze dell'ordine. La vicenda Palestina e ONU, Corriere della Sera, sì dell'ONU alla Palestina, Italia favorevole, Israele molto delusi da Roma. Repubblica, l'ONU riconosce la Palestina, Monti corregge la Farnesina, la rabbia di Israele. Il Messaggero, Palestina sì dell'Italia, Il Manifesto, la Palestina c'è. Il Giornale, Monti svende Israele a Bersani, questo è il titolo di apertura, mentre Avvenire, Palestina all'ONU e l'Italia dice sì. Poi la vicenda PD e le botte da Orbi dell'ultimo giorno per le regole, Il Fatto Quotidiano, ora Bersani e Renzi fanno finta di litigare, L'Unità, regole, lo strappo di Renzi, La Stampa, primarie PD, tutti contro Renzi. Pubblico mette invece la foto di Bersani in lacrime a Porta quando ha visto la foto dei genitori, guerra e lacrime, mentre l'apertura di Libero è sulle assicurazioni, come cambiano, così si risparmia il 40% sulla polizza auto, questo è il titolo di apertura di Libero. Proprio da Libero però voglio partire per una notizia che trovate in prima pagina, firma Franco Bechis, e c'è la crisi Napolitano si aumenta lo stipendio. Questo, come si dice al solito, una di quelle notizie che vi do per farvi rallegrare in vista del weekend. Napolitano si alza lo stipendio. Troviamo il titolo a pagina 4, è un'intera pagina sui conti del Quirinale. Nel comparto pubblico, scrive Libero, Re Giorgio è l'unico a essere riuscito indenne dalla Spending Review. Nel 2013, ai 239.192 euro che prende già, il presidente ne aggiungerà altri 8.835 l'anno. Eccolo qui, Franco Bechis. Il bel gesto evidentemente non è arrivato dopo anni di tagli ai costi della politica, la rabbia popolare, la scure calata anche dal governo di Mario Monti. L'unico a non aver tirato la cinghia nelle istituzioni italiane è Giorgio Napolitano. Certo, nessuno ha osato toccare lo stipendio personale del Presidente della Repubblica aspettando quel bel gesto che non è arrivato, ma fa impressione scoprire che lo stipendio di Napolitano sarà l'unico in tutto il comparto pubblico ad aumentare nel 2013. La notizia è nascosta tra i trasferimenti del Ministero dell'Economia sui costi della politica raccontati dalla tabella 2 allegata alla legge di stabilità. E allora, per il capo dello Stato, che resterà in carica solo i primi mesi dell'anno, poi verrà rinnovata la carica, lo stipendio verrà aumentato di 8.835 euro l'anno, passando dunque a 248.017 euro. Non riguarderà poi Napolitano, ma la crescita continuerà anche nel 2014. Il futuro capo dello Stato guadagnerà ancora di più e si arriverà nel 2014 a 253.255 euro l'anno. Eppure c'erano mille buone ragioni, scrive Bechis, per spingere Napolitano a chiedere al governo di usare le forbici anche sull'assegno del Presidente della Repubblica invece di aumentarlo. Sarebbe stato un gesto nobile, avrebbe pesato poco sulle finanze personali, visto che lo stipendio per il capo dello Stato è quasi inutile, non paga praticamente nulla di tasca sua. Inoltre l'attuale inquilino avrebbe convissuto con quei tagli solo 5 mesi. Ma non avendolo fatto, l'assegno personale del capo dello Stato è tra le poche voci a crescere nella legge di bilancio. E questo scrive Libero, l'articolo lo trovate a pagina 4. Aumenta dunque lo stipendio del capo dello Stato, del Presidente della Repubblica. Lo abbiamo detto anche nel nostro Bar in Onda alle 6.30, è stato licenziato, un provvedimento molto serio, quel giornalista della RAI Piemonte, Giampiero Amandola, che ricordate prima di Juventus-Napoli ha sentito i tifosi e ha fatto questa domanda: come riconoscete i napoletani, li riconoscete dalla puzza? Parlava con i tifosi della Juventus. Marco Accossato sulla Stampa racconta a pagina 16 frasi razziste al TGR, cioè al TG regionale, licenziato il giornalista. La RAI ha licenziato il giornalista Giampiero Amandola, che lo scorso ottobre aveva descritto i partenopei così: i napoletani li distinguete dalla puzza. Immediatamente era stato sospeso per l'inqualificabile e vergognoso servizio. Lui aveva detto: ovviamente impugnerò il provvedimento. La frase aveva scatenato immediatamente su tutti i social network le reazioni di migliaia di tifosi. Una frase del peggiore repertorio della stupidità umana, aveva detto anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, che però ora altrettanto esplicitamente giudica il licenziamento molto severo. Decisione della RAI che sembra essere ritenuta eccessiva dall'Ordine. Dopo che, fa sapere la Stampa, c'è stato un tentativo di evitare un provvedimento così drastico, ma i vertici aziendali si sono dimostrati fin da subito irremovibili. Allora, che ne pensate? Certo, la frase di una stupidità incredibile, ma arrivare a licenziare una persona per aver fatto questa considerazione, che ne pensate? È davvero giusto, sbagliato? Poi chissà, magari si opporrà al provvedimento, ci sono sempre i giudici del lavoro che poi magari cambiano le cose, magari ha ragione, magari ha torto, però insomma il dato di fatto è che la RAI ha licenziato questo suo giornalista. Voglio, prima della pubblicità, regalarvi invece un piccolo sorriso, se volete. Esiste un paesino in Francia, L'Hérault si chiama, e trovate la storia a pagina 9 del secolo XIX. È il paese del buongiorno. Che vuol dire? Ebbene sì, è stata fatta un'ordinanza dal sindaco di questo paese in Francia che recita così: chi incrociando una persona, non lo saluta, magari con un buongiorno, o non lo ringrazia, sarà mandato via. Così, per ordinanza del sindaco. La rivoluzione bon ton del sindaco di un paesino della Francia. Basta i maleducati, il paese del buongiorno. Scrive Patrizia Albanese, l'educazione come il coraggio, uno non se la può dare, ma almeno quelle poche parole, il minimo sindacale, buongiorno, buonasera, grazie, prego, scusi, per cortesia, dovrebbe tassativamente albergare in chiunque, almeno così la pensa questo sindaco che ha fatto un'ordinanza, per obbligare gli abitanti del suo paese, obbligare a ringraziare e salutare. L'ordinanza del bon ton è stata ribattezzata l'Erol, per la precisione, piccolissimo centro alla manciata di chilometri dall'aeroporto di Beauvais, è un piccolo paradiso, almeno a giudicare dalle foto, e non so quanti saranno gli abitanti, forse saranno 500, forse 1000, forse si conoscono tutti, per questo è abbastanza più ovvio salutare lì piuttosto che nelle grandi città. Il sindaco si chiama Gérard Plé, chi entra negli uffici pubblici sarà tenuto a dire buongiorno, buonasera, grazie, per favore. Questo è l'articolo 1 dell'ordinanza, altrimenti se ne può andare via. Sì, non ho capito come, cioè per ordinanza viene prelevato e cacciato perché non ha detto buongiorno a qualcuno. Comunque sarebbe una buona ordinanza, valida. Io per esempio vivo a Milano, interessante per come ordinanza, come possibilità per desertificare Milano. Sarebbe buono un'ordinanza che obbliga la gente a salutare. Riprendiamo dalla questione dell'Ilva. Oggi è una giornata importante, decisiva quasi, si può dire, perché approda in Consiglio dei Ministri il decreto con il quale il governo intende salvare la situazione. Ieri Monti ha detto che con l'Ilva rischiamo di perdere 8 miliardi di euro l'anno, cioè con la chiusura dell'Ilva. E dunque oggi il decreto. Che succederà in Consiglio dei Ministri? Le anticipazioni le trovate sul Sole a pagina 3. L'Ilva torna subito in attività, Marzio Bartoloni. L'obiettivo è quello di far ripartire subito l'Ilva, riconsegnando all'azienda gli impianti ora sotto sequestro, ma senza scatenare un braccio di ferro con la magistratura. È questo il delicatissimo equilibrio sul quale si gioca la partita del decreto che oggi il governo si appresta a varare dopo la riunione di ieri tra il premier Monti e le parti sociali e l'avvocatura dello Stato. Monti ha appunto lanciato questo allarme, rischiamo di perdere 8 miliardi di euro l'anno, non possiamo permetterci di dare un'immagine dell'Italia come di un paese dove non sia possibile conciliare il rispetto assoluto della magistratura, la tutela dell'occupazione, la protezione della salute e dell'ambiente e il mantenimento di un settore strategico come quello dell'acciaio, così ha detto Monti. Ecco dunque il decreto con il quale l'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, diventerà legge e verrà probabilmente nominato un commissario, cioè una personalità, un garante che valuterà che questa AIA, questa autorizzazione integrata ambientale, venga applicata con scadenze da rispettare, in modo da far partire subito gli impianti, garantire i posti di lavoro, non far perdere competitività su questo settore all'Italia, non far chiudere il più grande polo siderurgico d'Europa e nel frattempo però anche adempiere a quello che chiede la magistratura e dunque rispettare l'ambiente. Un delicato equilibrio, anche perché la magistratura di Taranto potrebbe fare ricorso, potrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale dicendo che il decreto non lo è, si innesterebbe un braccio di ferro anche pericoloso, ma insomma vedremo come uscirà poi questo decreto con appunto le poche pagine. Pare un decreto di 5 articoli solo, scrive per esempio Antonella Baccaro oggi sul Corriere della Sera pagina 5, e la nomina di un garante appunto incaricato di vigilare sulla attuazione dell'autorizzazione unica ambientale, che così assume forza di legge. Questa è l'ultima bozza del decreto circolata ieri, ma chiaramente staremo a vedere oggi poi cosa uscirà dal Consiglio dei Ministri. Dopo il tornado il mostro si riaccende, usa queste parole il Manifesto nell'articolo a pagina 5 con l'articolo di Gianmario Leone per raccontare appunto la ripresa dell'Ilva con il tornado appunto e il mostro, così viene definito, sopra il cielo dell'Ilva che riparte. Sarà la parola fine a questa vicenda? Temo di no, perché comunque è una vicenda molto complicata, ma certo oggi è una giornata decisiva. Per la politica invece sono tutte giornate decisive. O avevamo raccontato che c'è la paralisi al Senato, o avevamo detto che ieri il presidente Vizzini ha detto nel giro di 24 ore si saprà se avremo la riforma elettorale. Attenzione, udite, udite. Il presidente del Senato Schifani ha detto che la prossima settimana, quella decisiva, la 96esima settimana decisiva, ci sarà la riforma elettorale. Pare, lo so, una barzelletta, ma non lo è, e magari sarà anche la volta buona, anche se il titolo di Italia oggi in prima pagina è questo: riforma elettorale, non si farà nulla perché nessuno la vuole. Qua qualcuno ci sta prendendo in giro, mi viene un terribile sospetto. Comunque il Senato rischia la semi-paralisi, così titola Il Sole a pagina 10. C'è un caos decreti, c'è la legge elettorale appunto che incombe da martedì a emergenza, tanto che il presidente della Camera Fini ha ordinato questo, cari ascoltatori, sentite bene, da settimana prossima e fino a Natale non si scappa, la Camera lavorerà perfino lunedì e venerdì. È un ordine perentorio, i parlamentari lavoreranno per ordine del presidente della Camera Fini, staccano visti da anche il lunedì e anche il venerdì. Basta, non vuole sentire ragioni Fini. Sul Fatto Quotidiano, casta, niente tagli per sciopero. Ieri, racconta Marco Palombi, per rinviare un provvedimento, il decreto sviluppo, che è aggiornato a lunedì, è stato trovata tra le motivazioni, le ha portate la Lega, il rinvio per lo sciopero dei trasporti. Ebbene sì, perché la spiegazione era questa: se la fiducia si fosse votata nella serata di ieri, il Senato si sarebbe dovuto riunire anche domani, sabato, per gli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento. Roba da poco, una mezza giornata appena, ma scrive Marco Palombi sul Fatto a pagina 7, i senatori già non sono abituati a stare in aula di venerdì, figuriamoci a rimanere a Roma fino a sabato, per di più per colpa di uno sciopero. Soluzione? Rinviamo tutto a lunedì. E quindi da giovedì, hop, salto di 3 giorni e rinviato tutto e aggiornato a lunedì. Ecco, così si rischia davvero, visto che ci sono dei decreti da convertire entro la fine dell'anno, di finire in un bel ingorgone stile grande raccordo anulare alle 7:40 del mattino di oggi. Siete sul grande raccordo anulare in coda? Ecco, più o meno l'ingorgo istituzionale sarà questo, quello che vi trovate a dover vivere in questo momento. Tra le cose invece che sono state approvate ieri per la firma di un emendamento di 2 senatori dell'Italia dei Valori, Elio Lannutti e l'altro si chiama Mascitelli, credo. Sì, Alfonso Mascitelli, come racconta Antonio Quaglio sul Sole 24 Ore, pagina 8, l'IMU verrà pagata piena per le fondazioni bancarie. È stata cancellata l'esenzione sugli immobili no profit. E dunque i dossier IMU e Cassa Depositi e Prestiti anche hanno posto nell'ultima ora le fondazioni bancarie al centro di un tour de force. Secondo il presidente delle fondazioni bancarie Guzzetti si tratta semplicemente di un'esenzione per solo 600.000 euro, dunque poca cosa. Comunque pagheranno pieno le fondazioni bancarie. Noi parleremo anche di IMU e Chiesa, con l'aspetto e la protesta delle scuole paritarie di ispirazione cattolica, che dicono: se ci fate pagare l'IMU, visto che noi siamo scuole appunto paritarie e quindi portiamo avanti il programma delle scuole pubbliche, tale e quale, è vero, prendiamo le rette ma paghiamo gli insegnanti, volete farci pagare l'IMU, e noi dobbiamo per questo rischiare di licenziare 200.000 persone di personale entro l'anno prossimo. Ne parleremo di questo alle 8:30, visto che è un tema molto caldo, soprattutto di dicembre, tra poco, quando l'IMU tutti gli italiani la pagheranno, quelli che hanno la casa ovviamente. E la politica invece, assistiamo a un finale tipo Rocky Balboa negli ultimi due giorni delle primarie del centrosinistra? È stato tutto abbastanza tranquillo, qualche schermaglia sui finanziamenti della campagna, ma da ieri il clima pare decisamente cambiato. Complice o colpa di alcune paginate di pubblicità che sono uscite su alcuni quotidiani di ieri e che oggi anche ci sono. Attenzione, sul Sole 24 Ore pagina 22, sul Messaggero a pagina 14, lo trovate qui, una paginata di pubblicità dell'associazione www.domenicavoto.it, sono renziani, che e c'è questa frase incriminata in questa pubblicità: anche chi non ha votato al primo turno può farlo al ballottaggio richiedendo la registrazione. Sono insorti gli altri quattro candidati: Bersani, che sfiderà Renzi al ballottaggio, e Puppato, Tabacci e Vendola, denunciando al comitato dei garanti del partito Matteo Renzi, tutti contro Renzi, a dire che ha violato una delle regole, quella delle regole non si può fare pubblicità, una delle regole fissate per queste primarie. E da lì si è scatenato il putiferio o l'inferno. Perché faccio questa citazione non a caso, tra poco spiegherò perché. L'articolo più interessante lo scrive Tommaso Labate a pagina 3 di Pubblico. Perché sentite come avrebbe reagito in un fuori onda, nel senso non senza microfono, quando doveva intervenire porta a porta Pierluigi Bersani, infuriato per questo tentativo sovversivo, così l'ha definito, di Matteo Renzi. Questo è sovversivismo, dice Bersani, sovversivismo bello e buono. Questo ragazzo, cioè Renzi, vuole provare a vincere a ogni costo. E se questa storia non finisce subito, domani, cioè oggi, intervengo e allora sì che ci sarà uno scazzo vero. Questo ha detto Pierluigi Bersani secondo il quotidiano Pubblico. Siccome oggi queste paginate di pubblicità continuano, e che succederà oggi? Si incontreranno per una sfida all'OK Corral definitiva? Bersani l'ha ribadito, insomma, in questo fuori onda è furibondo. Matteo vuole sfregiare queste primarie. Ora finisce tutto o ci sarà scazzo vero. Bersani promette scazzo vero con Renzi se la storia non finiva ieri. E siccome non è finita, io non voglio pensare cosa succederà oggi. Devo dire ancora a chi mi scrive come Luca, 96esima settimana decisiva, non è che le ho contate, è un'enfatizzazione, cioè per dire, è un'esagerazione sulla riforma elettorale, perché io su Twitter metto siamo alla 95esima settimana decisiva, dice da due anni, beh volendo non è che c'è un inizio, si può dire da qua, dall'inizio della legislatura potrò cambiarla, quindi possiamo andare indietro di 5 anni, ho messo una esagerazione così, ma arriveremo a 100 settimane, chi lo sa. Decisive per la riforma elettorale, staremo a vedere. Intanto ripeto, se le danno di santa ragione adesso all'interno del Partito Democratico, mi attaccano, ma sarà un boomerang, così Matteo Renzi a pagina 5 dell'Unità, intervistato da Vladimiro Frulletti: è tutto molto triste, non penso di meritare questo atteggiamento, ci sono 50.000 elettori che si stanno dichiarando di centrosinistra, si stanno iscrivendo all'albo degli elettori, vengono respinti dal Partito Democratico, dove avrei violato le regole, ho combattuto per cambiarle. Beh, ma lei ha fatto una pubblicità con l'invito a iscriversi per votare, ci sono le pagine a pagamento per votare Bersani pubblicate sui vari giornali, dice Renzi. Noi non abbiamo fatto pagine a pagamento per far votare Renzi, è un invito a partecipare e non l'ha fatto il mio comitato, così risponde il sindaco di Firenze. Mentre il presidente dei garanti del PD, Luigi Berlinguer, intervistato da Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano a pagina 2, dice: Renzi mi ha offeso in TV, ma farò il garante imparziale. Sulla pubblicità dice: non si poteva fare, c'è scritto, basta leggere il regolamento e non confondere gli elettori. È sbagliato dire che basta iscriversi per votare, non stiamo mica scherzando qui. E poi, tra l'altro, alla domanda, ma Renzi potrebbe essere espulso addirittura, come ieri ha detto il suo responsabile della campagna primaria Reggi, intervistato da Cruciani alla Zanzara, e Berlinguer dice: beh, non escludo nulla, ma significa che non posso dire nulla, né in senso positivo né in senso negativo, però non esageriamo. Ma potrebbe essere espulso, cosa rischia Renzi? La risposta qui di Berlinguer è: sono sincero, non saprei dirglielo. Ecco, questo è Luigi Berlinguer, il comitato dei garanti del PD. Sta di fatto che Berlinguer ha anche detto, l'abbiamo sentito in audio, siccome è arrivata quelle che si chiamano in gergo mail bombing, cioè tra i renziani c'è un attacco, anche attacco nel senso istigazione via mail a dire dai andiamo a votare, iscrivetevi, e c'è questa frase scateniamo l'inferno, che è chiaramente ripresa dal film Il Gladiatore, no? E allora Berlinguer ha detto a me l'inferno non piace, io voglio il paradiso. Insomma, pare che in queste ultime 48 ore ne vedremo delle belle. Forse Berlinguer non ha visto Il Gladiatore, non ha colto il riferimento, che non era mica a dire scateniamo l'inferno, nel senso che succederà mica niente domenica ai seggi, si andrà a votare chi vorrà andare a votare. Sta di fatto che è cambiato un po' il clima. Forse agli ultimi 48 ore se ne daranno di santa ragione, come hanno evitato di fare fino adesso con molto fair play. Sta di fatto però che scrive su Repubblica Goffredo De Marchis nel retroscena pagina 3 Matteo Renzi, dopo queste ultime polemiche sulle pubblicità, lui che aveva ipotizzato domani di chiudere la campagna l'ultimo giorno andando anche a Sesto San Giovanni, perché Sesto San Giovanni è anche la città dove è stato sindaco Filippo Penati, colui che è finito in guai giudiziari, che è stato per anni il sindaco di Sesto e il presidente, cioè, diciamo responsabile della segreteria politica, uno dei responsabili di Bersani, voleva in qualche modo, ecco lì, fare l'affondo, no? Renzi che va casualmente nella città di Filippo Penati, ma ha rinunciato con un SMS ieri. Renzi ai suoi organizzatori ha detto rinunciamo alla visita a Sesto San Giovanni. Ecco, allora torna all'ultimo il fair play, staremo a vedere. Dall'altra parte è un marasma completo, ogni giorno Alfano ora scarica gli ex di AN e torna da Berlusconi, così titola Repubblica. Alfano torna Delfino, titola Libero, pare che ormai le primarie non si facciano più, e pare che Silvio Berlusconi abbia visto la scena di Porta a Porta l'altro giorno dopo il dibattito Renzi-Bersani, sia rimasto letteralmente sconvolto dall'immagine disastrosa data dagli esponenti del PDL presenti. Questo almeno non lo dico io, non è un giudizio mio, è un giudizio del giornale che riporta le parole di Silvio Berlusconi ad Alberto Signore a pagina 5 del giornale. PDL vecchio e litigioso, ormai è soltanto archeologia. Berlusconi infastidito dall'immagine definita surreale data dal partito nell'intervento a Porta a Porta ed elogia Renzi. È come la candeggina, smacchia quello che c'è di comunista nel Partito Democratico. Dunque Berlusconi che ancora una volta fa un endorsement per Renzi, cioè dicendo spero insomma è il buono che c'è nel centro-sinistra, e un Berlusconi invece che è rimasto pare proprio sconcertato dall'immagine data dal suo partito, dal quale prende le distanze ancora una volta e di più nell'intervento a Porta a Porta. Se volete dovete leggere tutti gli articoli relativi alla polemica anche dopo il voto all'ONU, che ha un voto storico che ha deciso di elevare la Palestina a rango di paese non membro, perché non è uno stato, osservatore alle Nazioni Unite, c'è il sì di Roma. Monti personalmente è intervenuto telefonando ad Abu Mazen, il presidente palestinese, e poi dicendo alla Farnesina, al ministro degli esteri, votate sì, e c'è la rabbia del governo di Israele. Il giornale addirittura titola così: Monti ha tradito Israele e ha svenduto Israele alla Palestina. E la reazione dello Stato ebraico però è di una delusione molto grande, come racconta per esempio Francesco Battistini a pagina 3 del Corriere della Sera. Una delusione molto grande dopo la scelta di Roma. Voglio concludere con un articolo interessante che riguarderà moltissimi genitori a pagina 27 del Corriere della Sera. Il titolo è questo, viene dai pedagogisti. Perché litigare fa bene ai bambini se gli adulti non si intromettono? Perché noi adulti siamo sempre così, appena vediamo litigare i figli, anch'io ne ho due, dico no, aspetta Mattia, Angelica, fermo, cerchi di di ricomporre la situazione, e invece i pedagogisti dicono che è bene che litighino da soli, ovviamente nei limiti, prima che uno tiri fuori un ferro da maglia o un coltello. Bene che litighino da soli, perché così imparano a ricomporre anche le liti da soli e non degenerano in cose che magari si possono interiorizzare. Un gomitolo, un dado e dei fogli, dicono i pedagogisti, ecco, date loro queste, magari imparano a fare la pace senza chiedere mai, soprattutto, cari genitori, chi ha iniziato dei due. Ecco, questa è la domanda, dicono i pedagogisti, da non fare mai. Leggete il Corriere della Sera a pagina 27. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, alle 8:17 minuti, voglio dare il buongiorno e il benvenuta a Federica Salsi. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, grazie per l'invito. Grazie a lei. Federica Salsi è consigliere comunale a Bologna del Movimento 5 Stelle, è diventata celebre e insomma anche, come dire, al centro anche di attacchi, a volte anche scomposti, anche volgari, dopo la sua uscita a Ballarò, no, in TV. Sì. Questo per dire chi è Federica Salsi. Intanto come sta? Lei fa parte del Movimento 5 Stelle ancora, sì, non è arrivato nulla, nessun PS da Beppe Grillo, no? Per il momento non è ancora arrivato nulla. Accidenti, perché dice per il momento? Lo teme? Cioè, aleggia? No, non lo so, nel senso che ho avuto delle posizioni critiche nei confronti di Grillo, non è sotto gli occhi di tutto che le posizioni che ho espresso di criticità non sono state particolarmente gradite, per cui voglio dire, non avendo una sfera per decidere, per scoprire qual è il futuro, in questo momento a tutti gli effetti non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, no? Per il futuro non indovina. Ma c'è una scadenza, il PS può arrivare da un momento all'altro senza scadenza? No, non mi risulta che ci siano scadenze, assolutamente. No, non ha neanche sentito Beppe, cioè non ha provato a dire Beppe, parliamoci, insomma, vediamo di capire. Sinceramente no, non l'ho sentito, non ho in questo momento sentito neanche la necessità di mettermi in contatto, visto che siamo su due posizioni diametralmente opposte, e quindi non mi sembra che in questo momento ci sia, come posso dire, la volontà o comunque insomma il margine per poter aprire una discussione, un dibattito. In questo momento, secondo me, forse è il momento un attimo di stare a guardare quello che accade. Scusi, se lei dice diametralmente opposte, non ha neanche pensato allora di uscire dal Movimento 5 Stelle? Ma allora, siamo su posizioni diametralmente opposte per quanto riguarda alcune problematiche, ad esempio quella legata alla partecipazione alle trasmissioni televisive come talk show. Su altre cose, invece, devo dire la maggior parte di cose, condivido quello che è il programma del Movimento 5 Stelle, quindi mi sembra, come posso dire, riduttivo pensare di uscire da una forza, da un movimento politico perché su alcune cose sia in dissenso. Sì. Cioè, diciamo, diametralmente opposte sulla questione della sua partecipazione, però sì, lei condivide tutti gli ideali del Movimento 5 Stelle, insomma, ecco. In larga misura sì, ci sono alcune cose sulle quali secondo me c'è necessità di un forte dibattito, ad esempio il discorso dell'uscita dall'euro, per il quale Grillo ha già annunciato che vorrebbe fare un referendum. Lei invece la vede in modo diverso sull'euro? Ma no, io credo che ci sia effettivamente una grandissima necessità di approfondire questo problema, perché sia in un caso che nell'altro l'Italia ha dei problemi stando dentro l'euro, ma ne avrebbe anche altri poi uscendone. E quindi secondo me è una decisione che va presa in entrambi i casi, sia di rimanere dentro sia di rimanere fuori, va presa approfondendo estremamente, in maniera estremamente precisa. Sì. Le vicende. No? Senta, però quando è uscita per esempio la lista di tutti gli eletti nel movimento, tranne lei, tranne il suo nome, sul sito di Beppe, lei cosa ha pensato? Una dimenticanza oppure... Ma allora, io devo dire che non è che controllo abitualmente la lista degli eletti. Gliel'avranno detto, però le sarà arrivata la voce. Sito. me l'hanno segnalato e io la cosa che ho rilevato è che comunque quella lista non è aggiornata, nel senso che ci sono dentro consiglieri che si sono dimessi volontariamente o consiglieri che sono stati destinatari appunto di un PS, non ci sono dentro io che a tutti gli effetti dovrei esserci, per cui mi viene da dire la lista non è aggiornata, se la mia presenza o meno è dovuta ad un fatto volontario, francamente non lo so. Non lo sa. Ma questo sistema è un po' sospetto, ecco. Lascia il dubbio, lascia il dubbio. Un contesto di questo tipo lascia il dubbio. Ma questo sistema del PS non è, a me inquieta un po', visto dall'esterno, per carità, io non sono del Movimento 5 Stelle, però questa idea che uno con un PS, che vuol dire puoi sparire per l'appunto, inibisca l'utilizzo del brand, del marchio Movimento 5 Stelle, che sistema è? Ma è un sistema che mi rendo conto si presta a tantissime critiche e a volte anche strumentalizzazioni. Sicuramente è un sistema visto da fuori estremamente duro e crudo. Io non ho idea, questo che lo devo onestamente dire, non ho idea nei casi in cui siano stati fatti dei PS, non ho idea delle trattative, delle comunicazioni, comunque del dialogo che possa esserci stato a monte. Credo poco, credo zero, cioè il sistema. Questo è quello che dicono i destinatari del PS. Sentendo a volte lo staff, dicono invece che c'erano stati insomma motivi di discussione che alla fine non si è giunti a una soluzione. Sì. Io prendo atto di questo, non mi sento di giudicare né chi si ritrova destinatario di un PS né chi ha deciso di farlo. Prendo atto che sicuramente è un sistema, mi viene da dire, poco ortodosso, perché comunque non spiegando gli eventuali motivi che hanno spinto lo staff a prendere una decisione, PS, certo. Effettivamente che si sveglino una mattina e cacciano fuori le persone. E quindi io in più di un'occasione ho detto mi piacerebbe che lo staff nel momento in cui fa un PS motivasse in maniera esplicita, in maniera dettagliata le motivazioni, certo. Senta, ma tornando a quella battuta sicuramente infelice, no, sul punto G e sulla partecipazione a Ballarò, lei ha già detto che all'epoca Grillo è stato maschilista in questo, ma la politica in sé è maschilista nei confronti delle donne? C'è accanimento secondo lei? Ma allora, la politica è comunque lo specchio della nostra realtà. E se noi osserviamo la nostra realtà è innegabile notare che da un punto di vista di lavoro, ad esempio, le cariche, gli incarichi più elevati a livello dirigenziale sono in larga parte presieduti da uomini. È innegabile notare che in una famiglia, nel momento in cui c'è una difficoltà economica, c'è una difficoltà a gestire proprio la famiglia per via dei figli, cioè comunque un malato, normalmente è la donna che rinuncia al suo lavoro. Quindi anche la politica riflette questo, lei dice. E la politica riflette questo, riflette questo, per quanto si cerchi con delle quote rosa di limitare, tra virgolette, il danno e di cercare una situazione di parità. Sì. Comunque non si riesce. Però lei è isolata, cioè lei è isolata anche in consiglio. Gli altri due esponenti del Movimento 5 Stelle, Bugani e Piazza, credo. Non è vero che non le rivolgono neanche la parola, non la salutano e reciprocamente credo anche lei, no? No, non è una situazione così drammatica. Così drammatica. Addirittura una volta si sono fatti fotografare distante da lei, come per dire, prendiamo le distanze. Sì, hanno fatto un gesto molto, molto violento, che è stato quello durante la durante il Consiglio Comunale. Si stavano discutendo degli ordini del giorno per esprimere uno solidarietà a me e ad un'altra persona che era stata destinataria di frasi legate all'omofobia, e un altro ordine del giorno di condanna appunto di queste parole forti, però che non faceva un esplicito riferimento alle vicende accadute, e loro durante la discussione di questo ordine del giorno hanno scelto di alzarsi da dove erano seduti accanto a me per andare a sedersi lontano, manifestando un grande dissenso nei miei confronti. E poi c'è stato anche il video pubblicato sul blog con la relazione. Poi c'è stato anche un video con il famoso insulto, che non voglio neanche ripetere, ma insomma. Questa è un'altra cosa. C'era appunto questo discorso di esclusione. Allora, è innegabile che loro siano in forte disaccordo con quello che io ho espresso, e siano quindi estremamente allineati con Grillo. Sicuramente la situazione da un punto di vista personale è compromessa, perché ovviamente gli accadimenti comunque non sono successi e non possiamo far finta che non... Cioè una pizza insieme non andate a mangiarla, certo, ecco, questo... Sì, in questo momento diciamo che se devo scegliere con chi andare a mangiare una pizza, cioè se dobbiamo scegliere con chi andare a mangiare una pizza, magari scegliamo compagnie diverse. Però questo sì. Ma io non ho capito che cosa davvero le imputano, che cosa? Protagonismo per essere andata in TV, l'aver detto che c'è un difetto di democrazia all'interno del movimento, qual è la vera accusa che le fanno? Ma allora, questo in realtà credo che sarebbe molto più corretto chiederlo direttamente a loro. Io posso fare delle ipotesi sulla base di... Per esempio, Nerica... Ma sicuramente non hanno condiviso il fatto che io sia andata in trasmissione. Ho capito, ma succede un putiferio del genere, perché uno va in trasmissione e magari può anche dire ho sbagliato e basta. Il putiferio succede nella misura in cui viene data eco a livello nazionale ad una cosa del genere da Grillo. Io ho visto una grandissima differenza tra prima del post di Grillo e dopo. Prima del post, ad esempio, sulla mia bacheca Facebook erano arrivati diversi commenti in merito alla partecipazione, molti erano positivi, alcuni critici e altri negativi, però diciamo che facendo una media il trend era positivo. Cioè poi ha parlato Grillo e Grillo è il guru e quindi... Dopo è stato un disastro, dopo non solo i commenti sono diventati in larga misura negativi, ma anche di un'estrema violenza. Per cui mi viene da dire, se non ci fosse stata questa eco a livello nazionale, probabilmente ci sarebbe stata anche la possibilità di una discussione più serena. Ma questo vuol dire che Beppe Grillo anche nei... non sto dicendo che è un violento, per carità, ma Beppe Grillo nei modi, nel linguaggio è un po' troppo violento, secondo lei? Comunque attira questo tipo di violenza verbale? Ma sì, sicuramente. Allora, Grillo nei modi è sempre stato molto violento. Vuol dire, abbiamo fatto il vaffanculo dei, non mi sembra che sia una gentilezza quella che stava dicendo in piazza a Grillo e che ha urlato in tantissime piazze. Quindi sicuramente i suoi toni sono sempre stati molto molto forti, molto il problema è che poi trascina forse persone che esondano, che vanno oltre poi interpretando questo pensiero, o no? Io vedo però che c'è stata una differenza di comunicazione negli ultimi periodi, legata al momento in cui si stava avvicinando appunto la nostra partecipazione alle politiche. Cioè i toni da sarcastici, violenti, a volte estremamente taglienti, secondo me hanno anche un po' un contenuto, come posso dire, forse è esagerato, però per rendere l'idea, di cattiveria nei confronti delle persone. Cioè si scende molto più nell'attacco personale piuttosto che nella critica anche feroce del merito, e allora questo secondo me scatena le famose tifoserie che poi si sentono legittimate ai peggi insulti, e questo lo trovo molto pericoloso, perché in questa maniera invece di aggregare persone positive che forti di un disaccordo con la politica attuale vogliono costruire, aggrega persone che di fatto protestano e distruggono. No, io le devo chiedere ancora due cose. La prima è se c'è democrazia nel movimento. Lei già ne ha parlato, parlando di un rischio che diventasse come una sorta di setta, come diventasse Scientology. C'è democrazia secondo lei nel movimento 5 Stelle? Io devo fare dei distinguo. Noi a livello locale ci siamo sempre organizzati in maniera estremamente autonoma, senza mai nessuna ingerenza da parte dello staff. Abbiamo fatto il programma insieme ai cittadini, abbiamo scelto i candidati tra di noi, a volte anche sbagliando le modalità, i percorsi fatti, perché nessuno è perfetto, però ci siamo sempre auto-organizzati, auto-regolamentati. Le cose sono incominciate a cambiare quando da un piano locale si è passati ad un piano nazionale. Sul piano nazionale io l'ho sempre detto in tante altre occasioni, la necessità per poter fare una vera democrazia partecipata coinvolgendo il maggior numero di persone era quella di fare in modo che il portale nazionale funzionasse effettivamente bene. Adesso è un contenitore di proposte, però non c'è una vera piattaforma di voto per emendare le proposte, e questo è un grosso problema. A livello nazionale. Il problema è non riuscire a far fatica a fare rete con gli altri consiglieri eletti anche solo per condividere le informazioni. Sono cose che facciamo noi di nostra spontanea volontà. Allora, siccome questo è un problema, siccome la devo salutare per la pubblicità, intanto la ringrazio. Mi dica, ma per un po' sdrammatizzare, le percentuali di rischio che le arrivino un PS, lei come se le gioca? Ah, guardi, non ne ho la più pallida idea. Quando arriverà ci penserò. Vabbè, come quando arriverà? Sì, quando arriverà. Va bene. In bocca al lupo, grazie per essere stata con noi. Federica Salsi, voglio ricordare, consigliere comunale a Bologna del Movimento 5 Stelle, che è stata al centro di tante polemiche ultimamente dopo la partecipazione a Ballarò. Ci fermiamo alla pubblicità del meteo, poi parliamo ancora di IMU e Chiesa, soprattutto parliamo della protesta delle scuole paritarie di ispirazione cattolica che dicono attenzione se si applica il regolamento del Ministero dell'Economia che vuol fare applicare l'IMU, il pagamento dell'IMU anche a noi, rischiamo di dover licenziare 200.000 persone, del personale docente, perché non possiamo più con le rette mantenerli e quindi rischiamo questo. Per cui il ministro Profumo ci ripensi, il ministro Profumo pare avere accolto questo segnale d'allarme delle scuole paritarie. Vogliamo parlare di questo, IMU, Chiesa, le scuole paritarie, usiamo questa parola paritarie, non private ma paritarie, e ne parliamo anche col vostro parere 800 24 00 24. Allora parliamo di IMU, parliamo di scuole, parliamo di tutti voi italiani che mandate i vostri figli a scuola, perché da qualche giorno c'è l'allarme lanciato dalle scuole paritarie cattoliche, le scuole anche no profit, che dicono attenzione perché se viene applicato il decreto nuovo del Ministero dell'Economia per la quale dovremo pagare l'IMU, è un decreto un po' complicato, magari un po' pasticciato, un po' da rivedere, beh insomma, ma se dovremo pagare l'IMU noi saremo costretti con questi conti che non reggiamo, perché con le rette dobbiamo pagare gli insegnanti, a licenziare 200.000 persone. Questo per esempio è l'allarme molto chiaro lanciato da padre Cicci Marra, che è un responsabile nazionale dell'Associazione di Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica. E allora non dovete farci pagare l'IMU. Il ministro Profumo pare abbia accolto quest'allarme, oggi ne parlerà anche con Mario Monti. In particolare si lamentano e lanciano questo allarme anche le scuole paritarie dell'infanzia, dove dicono sono a rischio oltre ai posti degli insegnanti anche i posti per 600.000 bambini tra i 3 e i 6 anni. Insomma, parliamo di questo tema con Luigi Morgano, che saluta, il segretario nazionale della Federazione Scuole Materne di Ispirazione Cattolica. Buongiorno e benvenuto Morgano. Ci sente? La linea, vediamo di ripristinare. Morgano, adesso lo recuperiamo. Saluto intanto Marco Politi, che è scrittore vaticanista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Politi e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, il tema può essere complicato o anche semplice. Complicato se ci addentriamo nei meandri del decreto, del regolamento, eccetera. Però l'allarme è molto semplice, lanciato dalle scuole paritarie cattoliche. Se ci fate pagare l'IMU, qui dobbiamo lasciare a casa 200.000 insegnanti. Intanto ci ha raggiunto, me lo lasci salutare, Luigi Morgano. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io la sentivo, invece poi è caduta la linea. È caduta la linea, ma siamo qua. Siamo qua e c'è anche Marco Politi. Allora, Politi, è un allarme concreto, giusto, e che ha una sua un suo fondamento quello lanciato dalle scuole paritarie cattoliche? Politi. Ma io credo che intanto, diciamo, questo allarme abbia anche una funzione di pressione lobbistica, cioè si agita la minaccia della disoccupazione per ottenere un obiettivo, e l'obiettivo è quello di non pagare l'IMU. E mi pare che qui in Italia noi facciamo sempre dei discorsi che sono un po' diversi da quelli delle altre parti d'Europa, cioè l'IMU significa la tassa su un bene immobiliare, sì. È giusto che questa tassa la paghino tutti. Ora io voglio dire, è chiaro che le scuole cattoliche oggi non è che sono scuole caratterizzate da un particolare obiettivo caritativo o umanitario, sono delle scuole sostanzialmente normali, che tra l'altro corrispondono ad una serie di standard stabiliti dal pubblico. Per questo sono dette paritarie, non più private, ma paritarie. Ecco, non sono neanche più, diciamo 50 anni fa, non so, una che andava alle Orsoline di Genova era vista un po' come una scuola elitaria a cui attingeva tutta l'impresa privata, oppure un ragazzo che andava al Collegio Argento di Lecce faceva parte un po' di una scuola d'élite che formava in maniera particolare. Ci sono certamente dei punti di eccellenza, ma come dico, sono delle scuole private assolutamente normali, che tra l'altro in Italia negli ultimi anni hanno avuto anche una perdita di consenso, oggi ancora sono concentrate massimamente nella zona della maternità e dell'infanzia, sì. Però complessivamente una ricerca fatta da Critica Liberale e dalla CGL Nuovi Diritti sulla secolarizzazione in Italia ha dimostrato che nel 1991 gli iscritti alle scuole private cattoliche erano il 9% e nel 2008 erano scese al 6,7%. Sì. Comunque lei dice sono scuole fatte finite come le altre che non hanno uno scopo caritatevole particolare. Quindi non si capisce perché non debbano pagare una tassa normalmente, anche l'auto del parroco paga il bollo e quindi mi pare assolutamente giusto che paghi anche lì. Vediamo, è una prima obiezione molto concreta alla quale Morgano vorrei lei rispondesse. Intanto questo allarme, se è una pressione lobbistica che fate. Beh, direi che insomma credo che il discorso, se si vuole esaminare nel concreto entrando nel merito e non invece su posizioni pregiudiziali, può essere posto in maniera ben diversa da quello che sta facendo il mio interlocutore, altrimenti si ripetono le soliti slogan che sono tipici di discorsi già fatti che non vanno da nessuna parte. C'è un problema oggettivo: perché tra virgolette l'IMU a questo punto viene introdotta in questo modo? Perché a livello di Europa si considera l'attività scolastica attività commerciale, per carità, a posto. Però anche qui c'è un tema molto importante, cioè siccome è un'attività di natura commerciale a questo punto tutti devono essere messi alla pari, perfetto, però c'è un dato: in Italia il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie. Le scuole statali evidentemente non pagano l'IMU, certo. E a questo punto questo c'è un principio di contraddizione che viene messo in campo. Secondo elemento, mi consenta, il problema riguarda a questo punto un dato. C'è una peculiarità del nostro paese che riguarda il no profit. Sì. È un tema che riguarda in questo momento, ovviamente, qui stiamo parlando di scuola, ma riguarda complessivamente un ambito ben più ampio. Se questa situazione esiste, qualcuno dovrebbe spiegarmi, ad esempio, perché una realtà che dà in comodato gratuito un edificio per una attività no profit, quindi senza corrispettivo, in Italia a questo punto deve pagare tra virgolette l'IMU non disponendo dell'edificio per scopi tra virgolette lucrativi o altro. Ma semplicemente mettendolo a disposizione per chi svolge un'attività non però lucrativa. Mi scusi Morgano, quello che ha voluto introdurre il governo è il principio sempre dell'utile, cioè far pagare quelle scuole che alla fine dell'anno hanno un bilancio per cui si prevedono anche degli utili. Ma per la verità devo dire che se questo fosse precisato nel regolamento e non fosse tra virgolette lasciato ad una interpretazione che proprio perché non chiara rischia semplicemente di creare contenziosi, non saremmo questa mattina a parlare di questa questione, al di là di un altro dato che va anche detto, e cioè sostanzialmente se noi non consentiamo a tutti, perché questo è il tema vero, di poter scegliere la scuola a parità di condizioni economiche, è evidente che continuerà la situazione che possono scegliere unicamente coloro che più possono sul piano economico. Ma comunque l'obiezione sua la capisco e chiederei a Marco Politi questo. Effettivamente Morgano dice noi siamo una scuola paritaria appunto a tutti gli effetti, allora se la scuola pubblica non paga l'IMU non vedo perché si debba introdurre per le scuole cattoliche, anche se Politi poi lei in un intervento ieri sul Fatto Quotidiano ha detto che una soluzione ci sarebbe, e cioè sull'8 per 1000, ce la può spiegare? Sì. Ma intanto vorrei dire, io ascolto con grande attenzione le argomentazioni di chi mi ha preceduto, ma lascerei da parte che le argomentazioni degli altri sono slogan, perché sennò mi pare sia poco corretto, anche poco carino, e soprattutto non si arriva da nessuna parte. Il fatto di essere una scuola inserita perché osserva certi standard, e per esempio il contratto nazionale applicato agli insegnanti, al personale non docente o per quello che riguarda i programmi, non è che cambia la natura privata di questa scuola. Anche un ospedale che ha una convenzione con la regione rimane un ente privato, e soprattutto qui si sta cercando di dimenticare l'articolo fondamentale della Costituzione, l'articolo 33, che impone la piena libertà di insegnamento e di fondare qualsiasi istituto ed ente di insegnamento, ma senza oneri per lo Stato. Cioè il lavoro politico e lobbistico che si sta facendo negli ultimi 20 anni è di bypassare, il tentativo di bypassare questo articolo molto chiaro della nostra Costituzione, votato al suo tempo anche dalla democrazia. Quindi cristiana. Massima libertà all'insegnamento, ma se lo paghino, diciamo, non, certo. Non gravino sui costi dello Stato. Ed è esattamente poi quello che anche risulta da una ricerca fatta dal sociologo cattolico Garelli, che ha anche lavorato a grandi ricerche per conto della Conferenza Episcopale Italiana. In suo recente libro, che si chiama Religione all'italiana, ha rilevato che il 45% degli interrogati diceva che appunto ognuno si paga il proprio istituto con i soldi propri, sì. E un altro 37% addirittura, diciamo, era una posizione più radicale, diceva che ci devono essere solo scuole statali. Però facciamo così, siccome lei... Voglio passare al piano della proposta, infatti, come diceva lei. Infatti, ecco, però siccome politico, devo dare le informazioni sul traffico, ripartiamo proprio da lei sulla questione, la proposta che ha fatto sull'8 per mille. Ecco, Politi, concretizzi la proposta che lei ha fatto sull'8 per mille. Molto concreta, perché ritengo che se le scuole cattoliche hanno bisogno di finanziamenti, c'è un fondo enorme che è quello dell'8 per mille. L'8 per mille, che io ritengo come sistema sia anche un elemento di civiltà, perché riconosce la funzione sociale delle religioni, delle confessioni religiose. Oggi in Italia, rispetto a quando fu istituito nel 1984, porta alla Chiesa Cattolica Italiana dei soldi sproporzionati rispetto alla sua misura. Nel 1980, negli anni 80, la congrua dei parroci, che poi è stata abolita, era di 406 miliardi di lire. Ecco, oggi il miliardo di euro che la Chiesa Cattolica riceve con l'8 per mille è praticamente corrispondente a 2.000 miliardi di lire, quindi 5 volte tanto quanto la Chiesa italiana riceveva negli anni 80, e nel frattempo anche il numero dei parroci è diminuito. Assolutamente diminuito. Quindi utilizzino quei soldi. Fondo, basterebbe cambiare semplicemente una parte, un della paragrafo destinazione. Del concordato dell'84, e ci sarebbe la possibilità del tutto legale che la Chiesa utilizzi anche questi soldi per le proprie... Allora, scuole. Morgano, risponda sia a questa proposta di Politi e sia a quello che diceva prima sul fatto che comunque non bisogna gravare sui conti dello Stato. Morgano. Innanzitutto l'accordo Stato-Chiesa è stato siglato, devo ricordare a Politi che forse negli anni 80 la somma che ha ricordato consentiva, tra virgolette, sul potere d'acquisto quello che oggi è corrispondente alla cifra che ha ricordato, ma al di là di questo devo ricordare a Politi che è assolutamente falso che l'articolo 33 lo impedisce, talché ci fu un tentativo di referendum quando vennero varati i contributi della legge 62 del 2000, portata come ministro dal ministro Berlinguer al voto poi in Parlamento, e questo referendum non venne ammesso perché esattamente dice il contrario l'articolo 34 di quello che sostiene Politi. Lo dico perché altrimenti si comincia sempre con i soliti discorsi vetero, sono discorsi assolutamente superati. C'è un dato oggettivo, Politi deve rispondermi se è più democratico, più popolare, più progressista, più innovativo lo Stato, il Comune, la Regione che consente a tutti di scegliere a parità di condizioni la scuola o è più democratico, più popolare, più innovativo. No, mi scusi. Ma Politi dice scegliere sì. Solo chi può sul piano, no, però questa è la differenza sostanziale. Certo, ma Politi dice scegliere sì, ma non gravando sullo Stato, sulla ma proposta scusi, che ha fatto concreta, cioè utilizzare più fondi dell'8 per mille. Ma posso dirle, l'8 per mille in questo momento non coprirebbe evidentemente con tutte le altre opere, al di là del fatto che c'è un piccolo problema che c'è da modificare un concordato. Ma Politi sa che il costo, ad esempio, nella scuola dell'infanzia di un posto bambino, che non vuol dire la frequenza a carico dello Stato, è di 6.500 euro all'anno, e il contributo erogato alle scuole l'infanzia è di 451,25. Questo è un contributo significativo. Lei mi dice, voi avete fatto dei calcoli se dovesse essere introdotta l'IMU, quante persone rischiate di dover lasciare a posto a casa sia come personale e sia come bambini? Che il problema si riassume in questi termini: tutti i contributi che vengono erogati sono a sgravio delle rette. Quindi lo Stato continua a tagliare i contributi, le regioni per il patto di stabilità anche quando intervenivano si trovano in difficoltà, anche quelli più virtuosi altrettanto ancora, le famiglie hanno la condizione socio-economica che è nota, l'utenza che abbiamo noi scuole no profit è un'utenza popolare, è evidente che questa situazione non può reggere. Certo, quindi, perché voi dovreste aumentare le rette e questo creerebbe... Esattamente. Peraltro resta insoluto il problema di com'è possibile che, avendo a disposizione in edificio incomodato gratuito senza corrispettivo, a questo punto, tra virgolette, bisogna introdurre il corrispettivo per pagare l'IMU e tutto il resto. Allora, fatemi sentire degli ascoltatori. Alberto da Varese ci ha chiamato. Alberto, buongiorno. Che ne pensi su questo tema? Volevo dire questo, che io usufruisco di una scuola paritaria di Varese, sì, all'interno della quale ho un bambino, ci troviamo veramente bene. Sarebbe un peccato creare difficoltà in una delle poche cose che veramente funzionano bene da noi. Però perché lei paga, scusi, non è che voglio farmi i fatti suoi, ma paga una retta alta? Io pago non pago una retta particolarmente alta, pago una retta che è di circa 300 euro al mese. Che però non tutti si possono permettere, come lei ben sa, in Italia. Certo, di questo che tempo. Non tutti si possono permettere, però ci sono dei contributi che in funzione del reddito possono aiutare i genitori che non riescono a pagare, sì, questa retta. Quindi lei come vede questo? È contrario, perché un'introduzione dell'IMU potrebbe crearle problema sulla possibilità di scelta per suo figlio? Non tanto a me personalmente, quanto a tutto il sistema, che è, sì, un sistema che funziona bene e che purtroppo funziona meglio rispetto alla scuola pubblica. Non a tutto il pubblico, ma a gran parte del pubblico. Va bene, grazie Alberto. Luciana da Milano, buongiorno. Buongiorno. Luciana. Io posso dire a questo signore che io per mio nipote non me le posso permettere 300 euro al mese. Infatti è quello che ho detto io, lui non se solo, lo può permettere, ma si rende conto, no, che nelle scuole pubbliche non c'è la carta igienica? E finanziamo le scuole private dove le rette sono altissime? Se ne rende conto? Se rende conto che lo Stato Vaticano è lo Stato più ricco del mondo? Guardi, che uno stabile su quattro è del Vaticano? Però che c'entra, scusi, lo Stato c'entra Vaticano? C'entra pure che se io ho una capanna, sì, ci pago l'IMU. Però anche Luciana, se una gallina. Luciana, lei è d'accordo sul fatto che molte scuole paritarie offrono anche un servizio laddove lo Stato purtroppo è inefficiente nella scuola? Perché guardi che è anche così, sopperiscono a delle lacune che lo Stato ha e che sono in alcuni casi lacune molto molto grandi. Ma lacune molto grandi, perché se i soldi li diamo al Vaticano per le scuole private, la scuola pubblica non gli daremo mai niente. Vabbè, insomma, non è proprio così, però va bene, questa è la sua posizione. Luciana, la ringrazio. Non so, Presidente Morgano vuole rispondere. Ricordare semplicemente che la stessa situazione delle scuole della FISM, di cui sono segretario, quindi, sì, delle scuole, è la medesima condizione delle scuole comunali, perché anche le scuole comunali di qualsiasi comune sono scuole del Sistema Nazionale di Istruzione paritarie non statali, e quel fondo a cui si attinge a livello di stanziamento statale sempre più in riduzione attingono anche le scuole comunali. Quindi, come ho detto prima, tutti gli interventi che vengono fatti da parte di Stato, Regioni e enti locali, torno a dire, purtroppo le regioni hanno belle leggi ma non le finanziano più, i comuni si trovano in difficoltà per il patto di stabilità, lo Stato continua a ridurre, la cifra che, sì, in questo momento viene erogata è inferiore a quella che venne erogata quando venne istituita la legge 62 del 2000, è evidente che a questo punto questo determina un di più diretto a carico dei genitori, e noi abbiamo la consapevolezza che un'utenza popolare non è in grado di sostenere. Ma questo chiaramente è l'allarme che voi lanciate. Comunque staremo a vedere. So che in profumo, pare, nel ministro dell'istruzione avete trovato, pare, anche un alleato comunque a portare avanti le vostre istanze di protesta. Io mi devo fermare qui e vi ringrazio, Luigi Morgano e Marco Politi, scrittore vaticanista del Fatto. Ci fermiamo, la settimana di 24 Mattino si conclude con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Miriam Lucchetti in redazione. Allora vi salutiamo tutti, il nostro alpino Peter Biscapè sempre lì in regia, lo troveremo anche lunedì, sì, bello sveglio, sì, come sempre. E allora seguiteci su Twitter se volete, Alino Milan sono io, 24 Mattino è l'hashtag, l'account della trasmissione, ma anche un hashtag, fatelo diventare hashtag. E noi ci troviamo lunedì alle 6:30.